All'angolo del fienile si trovava un lupo. Se tu uscissi, se spuntasse un lupo, che ne sarebbe del bambino solo nella capanna? È arrivato. Il suo cuore gelato lo sapeva, lo sentiva. Lei aveva solo la pala. Il lupo fremeva sulle zampe senza accucciarsi del tutto, il pelo dritto lungo la schiena, le zanne spuntavano sotto il labbro arricciato. Era una femmina, grossa e spigolosa. Il suo compagno non poteva essere lontano. Il suo compagno forse stava strisciando dietro di lei. Non osava voltarsi per evitare che si liberasse dal suo sguardo. I suoi occhi brillavano di verde nella penombra. La neve scivolava verso il basso, uno schermo mobile trasparente tra lei e quegli occhi. I fiocchi di neve si posarono sul collo ispido della lupa. La sua bocca si aprì in un ansimo senza suono. La lingua rossa guizzò, affamata, sul muso appuntito. Spostò una zampa. Caroline non si mosse. La lupa si voltò rapidamente, scomparve come un'ombra nella neve che cadeva. La neve divenne subito una minaccia, nascondendo il pericolo in agguato. Caroline camminava con fermezza attraverso la cecità bianca che la circondava, verso la panchina, verso la capanna. Non corse. Sapeva che se avesse corso, il suo intimo avrebbe ceduto a un terrore sconvolgente. Finché la lupa non si vedeva da nessuna parte, lei era al sicuro. La lupa non sarebbe scattata se non l'avesse vista. Ma mentre lei scendeva lungo il sentiero, sulla sponda del torrente, lei avrebbe potuto balzare su di lei dall'alto. Sapeva che la stava seguendo. Raggiunse il sentiero e corse. Non c'era tempo per misurare la lunghezza di quella distanza dal bordo della prateria allo sbattere della porta dietro di lei. Un lungo ululato di lupo si levò dal soffitto sopra la sua testa e un altro le rispose dal torrente ghiacciato sottostante. Più volte quel giorno udì debolmente i lamenti disperati della giovenca. La porta del fienile era solida, le pareti erano spesse, anche il tetto era di zolle. Non sapeva se i lupi sarebbero riusciti ad aprirsi un varco, erano affamati, aveva visto il pelo incavato tra le costole. Quella sera sentì ringhiare e scricchiolare alla porta. I lupi avevano trovato la carne fresca, dovevano aver seguito il bestiame e la carcassa del manzo che aveva ucciso li aveva tenuti lì vicino. Sentì uno sbuffo lungo la soglia e un graffio d'artigli sulla porta. Tenne la lampada accesa e rimase tutta la notte a guardare il vetro di carta. Lo spazio della finestra era troppo piccolo per far passare facilmente un lupo. Se appariva una zampa o una testa era pronta a sparare. Ce l'aveva e decise, piuttosto che uscire di nuovo nella tempesta di neve, di tagliare tavolo e panche e bruciarli. Ma riuscì a far durare il fieno per 2 giorni e poi uno spiraglio di luce sopra la neve, ammucchiata contro la finestra, le disse che finalmente il sole splendeva. A poco forzò la porta. La pistola era nella sua mano, non vedeva i lupi. Ma questo non significava che non potessero essere in attesa al di là del bordo dell'argine sovrastante. Ma non poteva sopravvivere tutto l'inverno senza legna. Alcuni pericoli dovevano essere affrontati. Non trovò traccia dei lupi da nessuna parte e nella stalla la giovenca era al sicuro. Da allora sentì spesso i lupi ululare e trovò le loro tracce alla porta e intorno alla stalla. Non lasciò mai la capanna senza la pistola. Si costruì una cintura per portarla, in modo che fosse sempre a portata di mano mentre sgombrava il sentiero o lottava con i fasci di fieno. La realtà dei lupi le ricordava costantemente l'avvertimento di Charles. Lupi, aveva scritto, lupi è fuori legge. Quando attizzava il fuoco pensava al fumo che saliva dal camino. Per 70 miglia intorno, nelle giornate limpide, si poteva vedere che la capanna era abitata. Probabilmente non sarebbero venuti i malviventi a caccia di rivendicazioni, ma i fuorilegge. Sentiva dentro di sé la certezza che a qualsiasi minaccia umana di pericolo lei avrebbe risposto uccidendo. Disse a se stessa che nessun estraneo sarebbe dovuto entrare nella sua capanna, in nessun caso e con nessuna parola giusta. Questo decise di fare, sicura di sé. Ma non si conosceva ancora abbastanza. Una bufera di neve si susseguiva ad un'altra con ore o giorni di sereno tra l'una e l'altra, e lei aveva perso la cognizione del tempo e non era del tutto sicura se fosse ancora a dicembre o se fosse gennaio. Ma ogni giorno si avvicinava alla fine di questo inverno. Il bambino era sano, la giovenca era al sicuro nella stalla e lei resisteva abbastanza bene. sempre più spesso, sognava la primavera e Charles fuori dalla sua portata. E lei troppo confusa o troppo debole per raggiungerlo o per far sì che Charles sentisse il suo richiamo. Ma di giorno sapeva che doveva solo resistere. Charles sarebbe tornato. La primavera sarebbe arrivata. Non aveva bisogno di andare lei verso di loro. Febbraio era arrivato, anche se lei non lo sapeva. 3 giorni sereni di freddo terribile stavano terminando e verso sera, con l'alzarsi dei venti di bufera. Quel giorno Caroline aveva riempito metà del fienile di fieno. La giovenca era ormai così mansueta che avrebbe potuto tranquillamente lasciarla libera con quell'abbondanza di mangime e con il lavatoio pieno d'acqua se la bufera fosse durata una settimana. Il bambino dormiva, la cassetta era piena di fieno attorcigliato, i piatti della cena erano stati lavati e alla debole luce del fuoco morente Caroline si pettinò per la notte. Un colpo si abbatté sulla porta. E tutto d'un tratto le forze dell'aria cedettero. Caroline pensò a quanto sembrassero demoniaci gli uomini a cavallo che correvano e volteggiavano sopra di lei con urla e grida terribili e disumane, con un urlo selvaggio. Un po' di neve fine e dura come la sabbia fu spinta attraverso la fessura sotto la porta. Si scosse i capelli e alzò le mani per intrecciarli. E nel bagliore di luce del coperchio rotto della stufa vide una giuntura del tubo della stufa piegarsi improvvisamente. Le due estremità del tubo scivolarono l'una sull'altra e si aprì una fessura tra di esse. Impietrita sentì un grido umano, un'esclamazione lamentoso. Un uomo era in cima alla capanna, accecato dalla tempesta, era inciampato contro il camino. Non si trattava di un uomo onesto né di un proprietario di casa smarrito. Nel raggio di chilometri non c'era un podere non abbandonato. Per tutto il pomeriggio la bufera era stata minacciosa. Nessun uomo onesto si sarebbe allontanato dal suo riparo. Solo un cavaliere del nord-ovest avrebbe potuto fuggire prima della tempesta dai rifugi nord-occidentali dei fuorilegge. I lupi e i fuorilegge torneranno a vivere in un paese colonizzato. Aveva colpito il camino sul lato est e stava andando verso il torrente. Solo pochi passi sarebbe caduto lungo la riva del torrente, giù, nelle profonde frane sottostanti. Sarebbe sparito, perso, sepolto, da qualche parte, dalla tempesta. Solo le sue ossa sarebbero state ritrovate dopo lo scioglimento della neve in primavera. «Stai ferma», pensò lei. «Non muoverti, non sono affari tuoi. Non farlo entrare. Chissà chi è, chissà cosa farebbe», pensa al bambino. «Ma cosa stai facendo?» si diceva. Con la bocca vicina al tubo della stufa gridò: «State fermi, non muovetevi!» La fuliggine staccata dalla giuntura aperta dal tubo le cadde sul viso, tanto era stata rapida la sua azione. «Mi sentite?» chiamò. Un vago grido rispose. Sembrava che fosse caduto o che si fosse allontanato di un passo o due verso il torrente. Sapeva che i venti turbinavano, picchiando e strattonandolo da ogni porta, da ogni parte, che la neve, simile alla sabbia, gli ricopriva il viso. Lo vedeva accecato, assordato, smarrito, un fuorilegge, ma un essere umano che lottava contro la tempesta. «Sdraiati! Striscia!» gli gridò. «L'argine del torrente più avanti! Seguilo a destra! Trova una corda, hai capito?» Il suo grido era sordo, attraverso i venti più forti. Poi esitò, ma il fienile era chiuso con un lucchetto. «C'è un sentiero!» chiamò. «Sentiero! In basso, a sinistra!» Se lui gridò di nuovo, lei non lo sentì. Si attorcigliò i capelli e vi infilò delle forcine, si abbottonò la basca e accese la lampada. Prese la pistola e si assicurò che fosse carica. Un istinto difficilmente ragionevole. Chi farebbe del male a un bambino? Le fece sollevare Charles John. Lo avvolse in una coperta e lo adagiò sul fieno nella cassetta di legno. Si sentiva meglio con il bambino dietro di sé. Poi sollevò la sbarra della porta e, ritirandosi dietro il tavolo, aspettò. Ebbe il tempo di pentirsi di ciò che aveva fatto e di sapere che non avrebbe potuto fare altrimenti. Il vento aprì improvvisamente la porta. La neve entrò a turbini e fredda. La lampada si accese fumosamente mentre lei si avviava in avanti. L'uomo apparve nella bufera bianca. Era alto e informe, con un cappotto di pelliccia e un berretto e le orecchie coperte di neve, gli occhi arrossati, le sopracciglia coperte di neve. Erano piene come ovatta. Fu un istante prima che lei lo riconoscesse e gridasse, l'urlo selvaggio le girava vertiginosamente in testa quando le braccia di lui si chiusero intorno a lei, dure e fredde come il ghiaccio. Oh, come sei arrivato qui? Ansimò dopo un po', incapace ancora di crederci. Le sue mani continuavano a stringere su e giù per la pelliccia innevata, come se le sue mani fossero cose separate, frenetiche anche loro, per assicurarsi che quello fosse proprio Charles. Accidenti, ti sto facendo morire di freddo, devo chiudere la porta, disse. E a queste parole casalinghe, perché Charles stava chiudendo la porta, lei scoppiò a piangere. Hai cenato? Piangeva. Oh, impiccate la cena! Cantò lui con gioia. In seguito la prese un po' in giro. Cosa c'è di così sorprendente? Non ti avevo detto che sarei arrivato il prima possibile? La rimproverò seriamente. Caroline, Dio solo sa cosa ho passato quando in città mi hanno detto che gli Svensson si erano licenziati e tu eri qui fuori da sola. Non fare mai più uno scherzo del genere, hai capito? Credi che a me importi qualcosa di tutto il mondo se non ci sei tu? Poi lui chiese: come sta il piccolo? E lei rispose: oh, Charles, è meraviglioso, ha due denti. Ma poi l'abbracciò e c'erano così tante cose da chiedere e da raccontare. In città lo avevano avvertito che non sarebbe riuscito a superare la bufera, ma lui pensava di potercela fare. Aveva quasi raggiunto la palude quando si scatenò la tempesta. Doveva essersi confuso e aver sbagliato strada. Stava cercando il pozzo nella palude quando aveva colpito il camino. Pensavo che dal pozzo avrei potuto vedere il fienile e poi la riva del torrente, ma pensavo di andare a nord. Poi, quando ho colpito il camino, non sapevo dove mi trovavo, non riuscivo a capire cosa fosse. Mi ha colpito e poi non l'ho più trovato. Era quello che stavo facendo, cercandolo, quando ti ho sentita. Caroline, angelo mio. Oh, gli disse lei. E abbiamo una mucca. Non è la nostra mucca. Beh, è una giovenca, una buona e gentile giovenca rossa, sarà un'ottima mucca da latte. Ma come hai fatto a... Senti, disse, ho 40 dollari. Voglio dire che Roslin è l'uomo più bianco di 20 con te. Non mi aspettavo di avere ancora un centesimo, ma... Oh, Charles, come sta la tua gamba? Beh, devo lavorarci ancora un po', si nota che ho messo tutto sull'altro ginocchio, ma ha resistito abbastanza bene alla camminata. Andrà bene, come sempre, per la ratura di primavera. E hai camminato per 10 miglia? Oh, Charles, e cosa pensavi che avrei fatto? E tu qui da sola? Charles, l'intero paese è invaso dai lupi. Bene, vorrà dire che prenderò delle belle pelli. Non importava in realtà quello che si dicevano. Erano insieme e ora tutto andava bene. Sentì il clamore della tempesta e tutti i demoni dell'inferno che urlavano. Semplicemente una bufera di neve, semplicemente il clima invernale della loro fattoria. Un piccolo rumore la fece voltare. C'era il bambino, c'era il piccolo Charles John sveglio, che si sollevava con le sue piccole dita sul bordo della cassetta di legno. Un filo di fieno si aggrappava ai suoi capelli ondulati. Rimbalzò una volta e poi, chiaramente, trionfalmente parlò. Bablub! Disse. Una fossetta gli fremette sulla guancia, poi la bocca si allargò nell'ampio sorriso di Charles ed ecco i due bei denti bianchi del bambino. Guarda, Charles, guarda, hai sentito che ti ha chiamato papà? In qualche modo, senza pensarci, sentiva che una luce dal futuro brillava attraverso il viso del bambino. La grande casa nuova, bianca, intonacata. Gli ettari di terra seminati a grano, la nuova pariglia di cavalli, il nuovo carretto. Se avesse ricordato questa vita nella capanna, l'avrebbe considerata solo un breve preludio a tempi migliori che sarebbero venuti. Fine.